Reinizia la programmazione di collagene e proteine culturali. Siamo qui per parlarne con le curatrici Alessandra Marolle e Carolina Altilia. Ciao ragazze, ben tornate. Grazie, ben ritrovati e buongiorno a tutte e tutti. Allora ragazze, partiamo con le buone notizie, perché insomma confermate la rassegna di collagene e proteine culturali, in particolare questi incontri di gennaio di cui parleremo tra poco, e insomma mi piace l'idea di sottolineare che, a differenza purtroppo di tante altre realtà culturali che hanno deciso sicuramente a malincuore di sospendere le loro attività, voi appunto continuate. Ci volete raccontare il perché di questa scelta, che sicuramente è una scelta anche coraggiosa? Sì, decisamente. Diciamo, è una scelta che ha ovviamente una lunga riflessione alle spalle, che dipende diciamo da una presa di consapevolezza e di soprattutto di responsabilità rispetto a un presente che evidentemente sta cambiando. E il nostro atteggiamento è che vogliamo viverlo, attraversarlo anche nel suo mutamento, senza diciamo sottrarsi a questa situazione, ma imparando ad abitarlo questo presente, ecco. Ovviamente le misure di tutela saranno più stringenti e noi ci adegueremo e allineeremo, come d'altronde abbiamo sempre fatto, però la nostra posizione è quella che noi preferiamo in ogni caso affrontare questa situazione piuttosto che chiudere un'altra volta, peraltro in maniera volontaria, perché non ci sono obblighi di sospensione delle attività, e questo comunque per noi sarebbe assolutamente penalizzante come lavoratori, lavoratrici, come operatori culturali, come artisti. Quindi sì, abbiamo deciso di continuare con tutte le misure di cautela necessarie. Certo, assolutamente, ovviamente la sicurezza di tutti e tutte è sempre al primo posto, ecco. E tornando appunto a parlare dei vostri eventi, il primo si terrà proprio domani, il primo evento di gennaio, quindi domani 11 gennaio, con una performance site specific e anche un'installazione. Ce la volete un po' raccontare? Certo, allora, domani ospiteremo due progetti di due artisti, anzi uno è un collettivo, l'altro è un artista, tutti vengono da fuori Bologna. Allora, Daniela Beltrani porterà Sight Unseen, che è un progetto che è stato rimodulato rispetto alla sua idea iniziale, diciamo, rimodulato anche in base a tutti quelli che sono i cambiamenti in atto, quindi l'artista ha ripensato la sua progettazione, la sua ricerca anche in funzione di quello che sta accadendo in tempo reale. La sua performance si baserà su principalmente una meditazione collettiva guidata dall'artista e indagherà l'aria come elemento che ci accomuna e predominante. Poi seguiranno delle azioni performative. Lo stesso elemento viene indagato anche dalla performance e installazione del secondo progetto, rappresentato da Ian Voxel. È un collettivo che viene da fuori Bologna, in parte da Reggio Emilia, in parte da Milano. Porta un progetto a cui noi siamo molto affezionate, legate fin dalla sua prima presentazione all'interno della rassegna, perché è una progettazione di carattere sia scientifico che artistico. Indaga l'aria, tutto quello che passa e noi respiriamo attraverso l'aria, tutto quello che è sospeso, tutti quelli che sono gli organismi visibili e invisibili che entrano comunque nel nostro corpo e che si chiamano proprio critters. Quindi c'è una parte più di osservazione, quindi gli artisti permetteranno un'osservazione al microscopio visiva di questi organismi che si vanno a depositare su dei vetrini, racconteranno un po' tutto il processo, e poi c'è uno scarto ovviamente poetico, che è quello del tempo che loro processano in questo esperimento e che vanno a raccontare in maniera più artistica con altri strumenti, videoproiezioni, sonorizzazioni. Ecco, poi non svelerei molto di più perché sono dei progetti che vanno veramente partecipati. Assolutamente, ma non solo l'11 gennaio, perché ci sarà un altro appuntamento anche il 25, questa volta toccherà a 88 cieli di Mirko Frignani e a Guida Galattica per Poeta Stuppisti, e già questo titolo a me ispira particolarmente. Di che cosa si tratta? Sì, allora, in realtà martedì 25 gennaio sperimenteremo con tre diversi progetti. Due sono quelli che hai appena citato, appunto 88 cieli e Guida Galattica per poeta stoppisti. La prima è un'installazione che intende indagare il rapporto tra l'uomo e quella immensa coperta che è il cielo. Il secondo progetto è invece una performance di spoken music che, diciamo, si basa sull'astrofisica. Catironi, attraverso la poesia, ci porterà in viaggio alla scoperta o riscoperta di quel luogo tanto affascinante quanto sconosciuto che è l'universo. Poi, appunto, come dicevo prima, ci sarà un terzo progetto, e questo terzo progetto si intitola Pulse, di Nila Marchesini e Andrea Uolini. Il cuore del progetto è il tema della condivisione di memoria ed esperienza. La performance prevede di rilevare il battito cardiaco attraverso dei sensori che, appunto, rilevano frequenza e pressione, per poi trasformarli in partiture musicali. Quello che sarà poi il prodotto, il risultato finale, gli artisti lo daranno al pubblico che ha partecipato, insomma, sotto forma di file audio, di traccia sonora del proprio impulso. E questo sarà un po' l'appuntamento del 25 gennaio. Bene, ragazzi, direi che, insomma, anche questo mese sarà bello ricco di eventi, sicuramente da non perdere. E che dire, speriamo di risentirci anche per quelli di febbraio. Certo, noi, come dire, siamo sempre molto fiduciose. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anche io. Bene, ragazze, grazie come sempre per averci raccontato la vostra programmazione di gennaio, e ci risentiremo per i prossimi eventi. Grazie a te, grazie a Radio Città Fujiko. Un saluto a tutti e tutte.